casone in ogni sua ricchezza. Che grande armonia quando la moglie non avverte il marito. Ora invece tutto è ostile e i sentimenti ne soffrono. Casone, la colpa. Avversaria non canterà vittoria. Medea non ti vuole vicino. Compagno dei figli di Giasone, lo sai bene che il cuore dei buoni servitori viene provato dalle sventure che toccano ai padroni e io sono qui talmente impaurita che ho sentito il bisogno di parlare con il cielo e la terra delle pene della mia padrona. Non ha smesso di piangere. Il dolore è solo al principio, non ancora a metà. Che illusa. E non sa ancora niente delle ultime pene. Ora devi parlare. Mi pento di quello che ho detto. Non nasconderlo alla tua compagna di servitù. Se occorre, so mantenere i segreti. Per caso, mi sono avvicinata dove sono gli anziani, alla fonte. Giocavano a dadi, facendo finta di niente. Ho sentito dire che Creonte, re di questa terra, vuole mandare via la madre e i bambini da Corinto. Ora non so se quello che ho sentito corrisponde al vero. Prego solo che non sia così. No, vedrai che Giasone, anche se indite con la madre, non permetterà. Patiscano simili cose. Ma le vecchie parentele fanno posto alle nuove e Giasone non è più di questa casa. Tutto è perduto. Se aggiungiamo una nuova disgrazia all'altra, non ancora assorbita. Comunque tu, sta zitta. La padrona non deve sapere quello che c'è. E Giasone possa morire! No, è lui che li comanda, è lui mio padrone. Certo, è cattivo verso i suoi cani. Ma chi non lo è? Ora cominci a capire che si ama più se stessi che i prossimi. Chi per motivo vale, chi per danare. La verità è che Giasone non ama più i suoi figli, perché pensa al nuovo matrimonio. Tieni i figli lontani dalla madre. I suoi occhi non mi dicono niente di buono. Medea non si calmerà. Se prima non si sarà abbattuta come una saetta contro qualcuno, sperando che lo faccia così. contro i ricci e non contro il buono. Il re, che cosa riuscirà a fare? Il suo cuore infuriato, il suo orgoglio ferito, quale violenza dovremo sopportare? Oh, sono disperata. Pensa ai tuoi bambini, maledetti. Madre maledetta! Voi dovreste morire con vostro padre e sprofondare con tutta la casa! Che cosa dici? Loro non hanno colpa. Il padre è colpevole perché odiarli. Vieni lontani dalle disgrazie. Ora sono arrivati a comandare il magro obbedire. Difficilmente placano la propria ira. E meglio, io li comandiamo. È meglio essere gente comune. Per quanto mi riguarda, io spero di finire in un luogo tranquillo, in pace, lontano dalle grandezze. La povertà è la cosa giusta per l'uomo, non la ricchezza. Questa chiama sulle case sventure sempre più gravi. Gemiti, mi dispiace, donna, dei dolori che affliggono questa casa che mi è cara. Non c'è più casa, niente è rimasto. Sonia ha preso con un matrimonio da lei. Medea, la mia padrona, passa la sua vita nella stanza e non c'è parola d'amico che le dia coraggio. Il cielo dovrebbe distruggermi. Perché vivo? C'è un motivo. Solo la morte potrebbe far finire questa vita che odio. La luce, ascoltate quale lamento l'infelice sposa leva al cielo. Pazza, che desiderio hai di quell'amore finito? Non chiamare la morte, tanto arriva prima di quanto pensi. E se il tuo sposo trova asilo in Albergo, non te la prendere con lui. Il cielo ti farà giustizia, non consumarti a rimpiangere il tuo uomo. E tutti i testimoni della mia sofferenza. Il mio uomo, il mio sposo ne è la causa. E questo nonostante le promesse e i giuramenti. Spero solo di vedere lui e la sua sposa, quelli che per primi mi hanno offesa, sprofondare con tutta la casa. Vorrei che mi ascoltassero. Mio padre, la mia città, che ho lasciato con la vergogna addosso di aver ucciso mio fratello. Sentite, sentite quello che dice, sentite come invoca giustizia e Dio. Custode dei giuramenti, la mia padrona, io lo so, non si accontenterà di poco per placare la sua rabbia. Ma se lei potesse venire da noi, udire il senso delle nostre parole, che vogliono solo sedare la sua collera, la sua voglia di vendetta. Almeno non difetti alle persone care la nostra assistenza. Vada lei, tirala fuori da quel letto, dille che noi le siamo amiche. Ma presto, prima che faccia del male, la sua rabbia sta per scoppiare. Vado. Ma non credo di riuscire a convincerla. Adempirò a questa penosa incombenza. Sappiate comunque che i servi che cercano di parlarle ricevono da lei solo sguardi furiosi come di una leonessa che ha appena partorito. Che stupidi e poco saggi quegli uomini che nei tempi andati composero inni per le feste sacre, canzoni per i banchetti, canti per celebrare la festa della vita, e nessuno che abbia pensato a poesia, a musica, per sedare le ire nefaste che provocarono morti e disgrazie nelle case. Sarebbe bello uomini sanassero questi mali con i canti. E poi mi chiedo perché, quando siedono a banchetto, sentono il bisogno di cantare, quando già il dover mangiare porta allegria. Sento ancora il suo dolore muoversi per le stanze. Si dispera per il cattivo marito che l'ha tradita in amore. Sentendosi ingiustamente offesa, vuole che il giuramento che l'ha portata qui, attraverso il mare, in quest'altra parte della Grecia, sia rispettato. E per questo vuole giustizia. Voglio che mi critichiate, per questo sono qui. So di gente che viene chiamata superba solo perché sfugge ai nostri occhi, e per questa loro riservatezza vengono chiamate indifferenti. Ma chi condanna una persona senza motivo e senza averla mai vista negli occhi la condanna senza giustizia. Uno straniero deve adattarsi ai costumi della città che lo ospita. Sarebbe sciocco da parte sua mostrare superbia e rendersi insopportabile agli occhi degli altri. Il dramma che ora vivo ha distrutto la mia vita. Ora tutto è finito e ho perso la gioia di vivere. Vorrei solo morire. La persona nella quale credevo, il mio uomo e sposo, quella persona è la peggiore degli uomini, fra tutti gli esseri viventi, o perlomeno fra quelli che hanno un cuore e un cervello. Le donne sono le più disgraziate, le donne che solo con la dote si acquistano il diritto ad avere uno sposo e un padrone per il loro corpo, cosa questa più grave dell'altra, benché nell'altra ci sia il rischio di prendersi un marito sbagliato, e in questo caso la donna è una donna finita, senza la possibilità di ripudiare lo sposo, e se l'uomo ben sopporta la convivenza, allora la moglie può ritenersi fortunata, altrimenti per lei è meglio morire. L'uomo, quando s'annoia, può uscire di casa e distrarsi con gli amici. Noi, invece, secondo gli usi, siamo abituati a vivere solo per una persona. Dicono poi che noi, vivendo in casa, abbiamo una vita senza pericoli, mentre loro fuori combattono. Non è vero. Se potessi evitare anche una sola volta di partorire, imbraccerei piuttosto 3 volte le armi. Le tue ricchezze, gli amici. Io invece sola, lontana dalla mia gente, portata qui come bottino di guerra, sono ripudiata da mio marito, senza poter ricorrere a confortarmi o alla madre, a un fratello. te il silenzio. Se riuscirò a vendicarmi di mio marito, dell'uomo che gli ha dato in sposa la figlia, della donna stessa che me lo ha portato via, tu dovrai tacere. La donna quando vede le armi perde il coraggio e ha paura, ma fate in modo che venga privata dei suoi diritti di donna. Allora vedrete in lei l'essere più sanguinario. Farò quello che dici, Medea. Non mi sorprendo che tu abbia a dolerti di queste faccende. Sono il garante di questo comando e non andrò via prima di vederti uscire dai confini di questo regno. Sono martiriata, non vivo più. Tutti riescono a sistemare le proprie cose, solo per me è difficile abbandonare quest'isola di dolore. Anche se così distrutta, io ti chiedo, Creonte, perché mi cacci dalla tua terra? Io ti temo. Questa è la mia ragione. Ho paura che tu faccia del male a mia figlia. E questi timori sono motivati, credimi. Primo perché sei incline ad avvalerti di ogni sorta di maleficio. Poi perché soffri, privata come sei dell'amore del tuo uomo. E in ultimo, si dice che tu minacci di distruggermi perché ho permesso il matrimonio e di fare del male allo sposo e alla sposa. Quindi intervengo subito, perché ciò non accada. Preferisco farmi odiare da te, ora, piuttosto che intenerirmi e piangere amaramente dopo. Non è la prima volta che la mia fama mi ha creato problemi, danneggiandomi. Un padre saggio non dovrebbe mai far studiare troppo i propri figli. Questi verrebbero subito accusati di presunzione e, rivelando verità sconvenienti, darebbero fastidio ai più. Così ora succede a me. Tutti sanno delle mie capacità e mi odiano, mi invidiano, mi vedono come una nemica. Eppure non sono poi così saggia. Tu hai paura di me. Pensi che possa farti del male. Ma non devi temere. Non sono in condizione di fare del male dei re. E poi tu non mi hai offesa. Hai solo fatto sposare tua figlia, chi ti piaceva. Io odio mio marito, il mio uomo. Tu hai fatto quello che dovevi. Non sono gelosa della tua felicità. Celebra pure le nozze. Siate felici. Ma lasciatemi stare qua, in questa terra. Starò zitta. So chi è il più forte. Ma dentro di me come il terrore che tu possa fare del male. E ora mi fido meno che mai. Riesci a combattere l'uomo e la donna irosa.

delle mura inviolabili per proteggermi non ci sono. Devo pensarci. Devo pensarci. Ora, almeno in silenzio, farò quello che devo fare. E se qualcosa me lo impedirà, io stessa, con le mie mani, suicida, li ucciderò. E questo ve lo giuro, nessuno più mi rattristerà rallegrandosi. Gli preparerò tristi nozze, lutti e amaro esilio per me. E insieme alla giustizia tutto è sopportito. Agli uomini vengono idee malvagie e la fede nel Dio non è più sicura. Al contrario cambierà la fama, così che la mia vita avrà un buon nome e stima il genere femminile. Quindi non si parlerà più male delle donne. Tu hai lasciato la casa paterna pazza d'amore, navigando per il mare attraverso le rupi gemelle dell'oceano. Sei ora in una terra straniera. Il tuo letto di sposa innamorato è deserto. Povera Medea. Oltraggiata devi subire anche il bando da questa terra. Dov'è il rispetto dei lamenti? Dov'è l'onore? In questa terra greca non resta più nulla. Tutto è volato via nell'aria. E tu, misera, non puoi più riparare nella casa paterna, mentre nel letto del tuo sposo un'altra donna comanda. Più forte. Anche se tu mi odi,

reduce dalla terra di Yolk, mi sono tirato dietro sciagure irreparabili. Cosa avrei potuto fare di meglio? Diventato esule, sono sposare la figlia di un re. E non l'ho fatto, come tu ti lamenti, perché io odiavo il tuo letto. Ma perché mi fossi innamorato di un'altra donna e volessi avere altri figli, mi bastano, perché io ho fatto tutto questo perché potessimo vivere in armonia, senza privazione. Ti amo come gli amici ti abbandonino appena cadi in disgrazia. E poi, volevo allevare i miei figli, quel decoro degno della mia casa, e fare degli altri fratelli accomigliati da te, per unirli nella stessa condizione, congiungerli le tue stirpi ed essere felici. Che bisogno hai di altri? Se non fossi gelosa che lo avresti. Siete così voi donne, salvato il letto, pensiate di avere tutto. Se qualcosa arriva per minacciarlo, anche la cosa più bella diventa ostile. Sarebbe meglio che gli uomini generassero senza le donne da qualche altra parte e che il genere femminile non esistesse. Soltanto così non ci sarebbero mali per gli uomini. Se io sono diversa dagli altri, per me le persone di giuste, pronte nel parlare, meritano la massima pena. Queste persone confidano nella loro abilità per nascondere con parole ogni tipo di crudeltà, ma non fanno bene. Giù la maschera! Non venire da me come onesto eloquace! Una sola parola ti metterà a terra se non eri quello che sei. Un disonesto, ti saresti sposato dopo avermi convinta e non all'insaputa di tutti. Se ti avessi detto del mio matrimonio, senz'altro mi avessi approvato, vero? Tu che la chiudi e sei di accoglierti tutta quella rabbia che hai in corpo. Non era la paura di non avere il mio consenso che ti tratteneva, ma solo il fatto che una donna straniera, barbara, non sarebbe stata onorevole per la tua vecchiaia. Perché ti bella in testa che se io ho sposato la figlia di me, non l'ho fatto per amore. Ha soltanto per salvare te e i miei figli, mettendo al mondo altri figli del mio stesso sangue, ma regali, quindi garanti della nostra casa. Cosa mi offri? Una vita tranquilla, piena di dolore, o una ricchezza che distrugga il mio cuore? Voglio un consiglio per vivere meglio. Non pensare che le cose giuste siano cattive. E non crederti sfortunata quando invece la fortuna ti ha il fianco. Beh, in giro perché sai dove andare. Io invece, una volta perduto tutto, sarò cacciata fuori da questa terra. Tu l'hai voluto! La colpa è solo tua! Che cosa ho fatto? Mi sono sposata io? Ti ho tradita io? Ti sei scagliata contro i sovrani con ogni tipo di maledizione! Quelle maledizioni sono anche per te! Non voglio più parlare con te di queste cose. Se ti occorre del denaro, dimmelo. Sarò riconoscente a tutti coloro che ti accoglieranno, e se non ti vale anche questa sentenza, manda via la rabbia e converrà. Non voglio niente da te. L'aiuto di un uomo perfido non giova a nessuno. Non devi offrirci. Tutti sono testimoni della volontà che ti aiutare te e i tuoi figli, ma te che aiuti non piacciono. E per il tuo orgoglio, figli anche gli amici, soffri meglio. Vattene! Così lontano dalla tua nuova sposa che già hai nostalgia di lei! Sposala! Se qualcuno mi sente, dovrai fare delle nozze di cui ti pentirai amaramente. Se invece l'amore è tenero, non c'è cosa più dolce. Io ti prego, signora, Non scagliare contro di me la freccia da cui non si sfugge, bagnata dal desiderio. Vorrei che la saggezza, dono bellissimo degli dei, mi sorvegliasse e che mai amore mi colpisse creando odio, gloria, straziandomi il cuore per letti impossibili, e che favorisse le unioni giuste vegliando sui talani. Io l'ho visto, e non lo dico perché me l'hanno detto. Nessuno ha avuto pietà di te, né una città né un amico, di te che soffri una pena così alta, che muoia colui che non onora gli amici dopo che questi gli hanno aperto il loro cuore. Costui non sarà mai un amico. Giustizia, luce del sole, ecco, la strada è questa. Forse tutti i miei nemici pagheranno. Ora ti dirò quello che ho in mente e ti consiglio di non sottovalutare i miei progetti. Io ho già sentito fuori da me. Una volta qui mi rivolgerò dolci parole. E io ho condividere le sue decisioni, il suo matrimonio, che pensavo lei da tutto. Poi lo pregherò di far restare qua i nostri figli, non per lasciarli in balia di un paese straniero dove i miei avversari li maltratterebbero, ma perché io posso uccidere con l'inganno la figlia del re. E così i miei figli, per ottenere restare in questa terra, portare gli uomini alla sposa, un morbido mantello e Medea. Io non posso, non voglio agire diversamente. Visto che hai detto quello che hai in mente di fare, io voglio aiutarti, scongiurandoti di non farlo. Vai contro tutte le leggi degli uomini. No, ma tu vuoi uccidere i tuoi figli? Solo così mio marito sarà divorato dal rimorso. Ma tu diventeresti la donna più infelice. Così sia. Ma basta con le parole di lui. Vai, portami qui, Giasone. Io ho fiducia in te, ma non devi parlarne dei miei piani se veramente mi vuoi bene. E sei una donna. Thank you.

cresciuti per i tuoi mali. Nel vedere i tuoi figli entrare col padre nella stanza nuziale, ci siamo rimpiancati, sicuri, l'un d'altro della vostra riappacificazione. C'era chi baciava loro le mani, i capelli biondi, senza pensarci anch'io per la gioia, varcai col loro la soglia del talamo. Vidi la padrona che ora celebriamo il tuo posto, che prima di accorgersi della presenza dei fanciulli, rivolse uno sguardo pieno d'amore a Gesù. E poi subito con gli occhi, girando altrove lo sguardo, contrariata dalla presenza dei piccoli, e già sono implantata, libera della sposa, la sua avversità, dicendo: non essere nemica, chi si è amica. Non voglio che le persone care a tuo marito siano tradite anche a te. Accetta il suo nome e convinci tuo padre, per amor mio, a non esiliare anche questi fanciulli. Alla vista del nome, non sembra resistere a contentoni, sono su tutto. E prima ancora che i figli col padre si fossero allontanati dalla casa, si rivestì del prezioso mantello e mise la corona d'oro sul capo, acconciandosi i capelli davanti allo specchio, compiaciuta della sua immagine. Poi si levò e, contenta dei regali, si aggirava per la stanza quasi ballando. Cose così vecchie e umane non sono più di voi.